Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione del traffico di droga. Pensava così della mafia trapanese Mauro Rostagno, sociologo, giornalista, conduttore della televisione siciliana RTC. Rostagno è uno dei fondatori di Saman, uno dei più importanti centri italiani per il recupero di tossicodipendenti. 26 settembre 1988. Intorno alla campagna di Trapani sono quasi le 20. Rostagno esce dalla sede della TV locale dove ogni sera conduce il telegiornale. Sale a bordo dell'automobile, pochi chilometri. Accanto a lui è seduta Monica. Raggiunge la sede della comunità Saman. Un comando è già appostato da alcune ore. Lo attende nel buio. Rostagno sta per aprire il cancello. I killer lo raggiungono e lo colpiscono a morte. Il giorno dopo l'emittente RTC ricostruisce così l'omicidio di Mauro Rostagno. Trapani, 26 settembre 1988. Sono le 8 di sera. Mauro Rostagno sta rientrando in auto alla comunità Saman, una struttura attraverso la quale insieme alla sua compagna Chica Roveri e al fondatore Francesco Cardella si occupa da più di 7 anni del recupero di alcolisti e tossicodipendenti. Saman, in sanscrito, significa canzone. Mauro, 46 anni, ha appena terminato la sua giornata lavorativa presso l'emittente privata di Trapani RTC, dove da circa 2 anni presta la sua opera nella conduzione dei servizi giornalistici. Tramite l'etere, Rostagno, Sanatano come si fa chiamare dopo la sua esperienza di arancione a Puna, lancia i suoi appelli ai trapanesi, denuncia il malgoverno, la pericolosità della mafia locale che ha fatto del traffico di eroina un business internazionale e i disagi di un capoluogo che alle soglie del 2000 deve affrontare problemi da terzo mondo. Ad attenderlo, a poche centinaia di metri dalla comunità, un comando di killer protetti dall'oscurità. Solo dal giorno prima, infatti, è stata ripristinata l'ora solare e inoltre gli attentatori hanno provveduto a staccare la luce dei lampioni in quel tratto di strada. L'auto imbocca una curva dove si è costretti a rallentare. I killer aprono il fuoco con un micidiale fucile semiautomatico a pompe, la Lupara. La prima serie di colpi infrange il lunotto posteriore dell'auto e colpisce Mauro ad una spalla. Ancora cosciente, mormora Monica, la ragazza che è in auto con lui. Stai tranquilla, tutto a posto, per questa volta è andata bene. Ma l'assassino si avvicina e lo finisce con un colpo in testa, lasciando miracolosamente incolume Monica. Quindi si allontana insieme ai suoi complici, a bordo di una Fiat Uno che verrà ritrovata il giorno dopo bruciata. L'auto era stata rubata a Palermo 4 mesi prima. L'allora prefetto di Trapani, Vittorio Piraneo, parla di delitto di Cosa Nostra, anche se eseguito da killer sprovveduti. Le modalità di esecuzione dell'assassino fanno pensare a un delitto mafioso. I professionisti e un po' sprovveduti. Si potrebbe pensare, fatto che il fucile è esploso nelle mani dell'assassino, potrebbe far pensare che non si tratta di professionisti molto preparati, però il professionista è chi, direi il mandante è il vero professionista, poi può darsi che abbia dato in carico a un killer non sufficientemente preparato, o può essere un incidente che può capitare anche al killer addestrato. Vincenzo Avigliaro era sindaco di Trapani nel 1988. E va ricercato sicuramente nel ruolo di Mauro Rostagno, in quello che faceva. Si sa bene, Mauro Rostagno senza riserva alcuna denunciava il malcostume, il malgoverno, i legami stretti tra i mercanti della morte, la mafia della droga, i mercanti della morte che avevano un po' preso in mano le redini di questa criminalità organizzata della mafia tradizionale che era è stata un po' scompaginata dalla presenza di questo crimine organizzato tutto corto, finalizzato a costruire ricchezza, a costruire denaro, senza guardare in faccia nessuno. E Mauro Lo Stagno denunciava senza mezzi termini, con molta determinazione, e questo certamente ha dato fastidio a qualcuno. Il microfono dell'emittente televisiva RTC, quella di Mauro Lo Stagno, gira lungo le strade e le piazze di Trapani. Tra i cittadini lo sgomento è forte. Forse perché... Ma come... Perché era un giornalista che indagava su qualche cosa di vero, forse, non lo so. Una persona che ha lottato per la giustizia, secondo me. Secondo me è stata una cosa veramente deplorevole, perché era una persona stimata e amata da tutti, che faceva del bene. Quando si arriva a questo punto, secondo me, non c'è fare altro che, diciamo, non si sa quale potrebbe essere la reazione. La notizia dell'assassinio di Mauro Lo Stagno compie il giro del paese. Lui è un uomo conosciuto e il suo curriculum viene da lontano. Figlio di genitori piemontesi, entrambi dipendenti Fiat, Mauro Lo Stagno cresce a Torino, in una casa popolare nella zona di Corso Dante. Nel 1960, a soli 19 anni, si sposa con una ragazza di poco più giovane di lui, dalla quale ha una bambina. Dopo pochi mesi lascia la moglie e parte per un lungo viaggio. Si reca prima in Germania, poi in Inghilterra. Alla fine torna in Italia. A Milano è coinvolto in un clamoroso gesto di protesta. Rischia di essere investito da un tram mentre protesta sotto il consolato spagnolo per la morte di un ragazzo ucciso dal regime franchista. Esplode la contestazione giovanile, ovunque c'è fermento, dall'università di Berkeley in California agli atenei tedeschi e francesi. Esplode in tutto il mondo, un paese dopo l'altro, in Europa, in Asia, in America Latina. Amplificata e rilanciata dai grandi mezzi di comunicazione di massa. Anche in Germania, le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, quasi sempre seguite da scontri con la polizia, costituiscono l'espressione più diffusa della contestazione studentesca, che trova in Rudi Dutschke un leader carismatico. Nell'aprile del 68 Dutschke rimane ferito in un attentato, a cui fanno seguito violente reazioni degli studenti, con la partecipazione di gruppi di operai e di intellettuali. L'irruzione della polizia all'interno dell'università di Tokyo per scacciare gli studenti atterragliati sulla torre dell'edificio. I poliziotti non scherzano, usano il manganello come i samurai facevano roteare la spada. Gli assalitori usano bombe lacrimogene, gli assediati si difendono agitando coperte dinanzi alle nubi del gas. L'assedio è lungo, i combattimenti procedono con fasi alterne. La vittoria viene decisa dalle più ingegnose macchine da guerra, come questo elicottero che investe con un improvviso getto di acqua l'ultimo drappello di giovani che si era rifugiato sul torrione più alto. La contestazione si espande a mazzadoglio, raggiunge tutte le grandi città europee e allarga il fronte, investendo via via la scuola, le istituzioni, la società intera, gli ideali e i comportamenti. A Torino, Milano e Roma i ragazzi si scontrano con le forze dell'ordine. Mauro Lo Stagno è un leader del movimento studentesco ed è sempre in prima fila alle manifestazioni di piazza. Si impedisce l'occupazione della facoltà di architettura. Ne nascono scontri durissimi e un bilancio di decine di feriti. Si sviluppa un clima di esaltazione. In generale, al diffondersi della contestazione, non erano mancati consensi o almeno benevolenza. A Trento, Mauro Lo Stagno si iscrive alla neonata facoltà di sociologia. Diviene ben presto uno dei leader del movimento universitario insieme a Marco Boato. Dentro la facoltà di sociologia, che all'inizio si chiamava Istituto Superiore di Scienze Sociali, si è creato un movimento collettivo che ha avuto caratteristiche molto peculiari e molto diverse dal resto dei movimenti studenteschi italiani. Un movimento collettivo legato nella prima fase ai temi specifici dell'università. Forse non esisterebbe oggi una laurea in sociologia se all'epoca quel movimento non avesse sì occupato l'università nel gennaio-febbraio del 66, ma con un obiettivo molto riformatore o riformista che dir si voglia, cioè conquistare la laurea in sociologia e non farsi riassorbire dalla vecchia facoltà di scienze politiche. Con Mauro Rostagno e Marco Boato ci sono anche Mara Cagol e Renato Curcio, che poco dopo fonderanno le Brigate Rosse. Prima del carcere la pena era la pena di morte, era ti taglio un braccio, era la gogna, se ne possono inventare infinite pene. E quindi il problema non è se punire, non è neanche il problema del punire, che è un problema filosofico, etico, ancora più profondo. Il problema semplice che io pongo è come punire. Se allora uno Stato mi dice che il suo come punire è sospendere il diritto, è ridurre all'inumanità, è destoricizzare un uomo, è buttarlo fuori dalla specie, allora io con Antelm, che è stato nei campi di concentramento, con Primo Levi, mi ribello. Mauro Rostagno diviene un dirigente di Lotta Continua, gruppo della sinistra extraparlamentare. Resterà nell'organizzazione fino al convegno di Rimini del 1976, che decide il definitivo scioglimento. Nel movimento inizia una lunga riflessione politica e ideologica. Sono gli anni del cosiddetto riflusso. Durante un viaggio in India, Mauro Rostagno aderisce al movimento dei cosiddetti arancioni. Prende il nome di Anand Sanatan. A Milano apre un locale, Macondo, successivamente chiuso dalle forze dell'ordine. Negli anni Ottanta fonda nei pressi di Trapani la comunità Saman, che si occupa del recupero dei tossicodipendenti. Tra poco, dopo la pausa, torna Giallo e Nero sull'omicidio di Mauro Rostagno. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Mauro Rostagno lavora per l'emittente televisiva RTC. Davanti alle telecamere per il suo telegiornale denuncia ogni sera con forza le collusioni tra mafia e politica locale. Ma Trapani non è Palermo e nel 1988 la mafia è in attesa di segnali politici, come ricordano i colleghi di Rostagno nel loro reportage di poco successivo all'omicidio. Trapani, capoluogo di provincia con 70.000 abitanti circa, situato sulla punta estrema della Sicilia, detiene il record del maggior numero di sportelli bancari in proporzione agli abitanti. Dotato di pochissimi sbocchi economici, se si esclude un modesto porto Pescherecci, un porto commerciale da limitate possibilità e abbandonato a se stesso, e l'attività delle saline, che costituiscono più una tradizione che una fonte effettiva di reddito determinante. Eppure, vi regna un certo benessere. Cittadina dall'apparenza tranquilla, raramente si registrano episodi di criminalità comune come scippi, rapine o furti di auto, qui regna quella che viene definita la Pax mafiosa. Trapani, a differenza di Palermo, dove la situazione è sfuggita al controllo delle famiglie di Cosa Nostra, è il santuario della mafia. Qui si conservano i capitali tramite appunto i numerosi sportelli bancari e qui si raffina e si smista l'eroina, una delle attività di maggior profitto della mafia. Non a caso, proprio in provincia di Trapani, in contrada Birgi, è stata scoperta circa un anno fa una delle maggiori raffinerie di eroina di Europa. E nelle strade di Trapani in molti non si danno pace. Anche dopo questa morte non succederà niente, perché noi siamo quelli che siamo, tutto il popolo siciliano si dovrebbe ribellare a tutte queste assassine, alla mafia praticamente. Perché non siamo, o non siamo capaci, o perché non siamo educati proprio alla civiltà, a queste ribellioni. Il discorso della paura, no? Ecco, credo che non bisogna aver paura. Sono convinto chi legge continuamente il Vangelo è pieno di speranza. Gesù continuamente dice non abbiate paura, non abbiate paura, piccolo greggio, no? E sono convinto che questo piccolo greggio di buona volontà che esiste a Trapani, non esiste in qualsiasi parte della terra questo greggio. Che va come pecore in mezzo ai lupi, non deve avere paura, deve avere speranza. La mafia è avere il potere, va bene? a qualsiasi costo. Il potere distruggendo anche gli altri, mentre il potere come servizio noi l'accettiamo, anzi desideriamo che il potere sia un servizio. Invece questo qua è il potere per arricchire, senza guardare in faccia a nessuno, anche uccidendo e rubando, non interessa. E il fenomeno una volta era diverso, va bene? Oggi purtroppo è delinquenza potente. Chicca Roveri spiega così l'assassino del suo compagno, Mauro Rostagno. Una persona a Trapani, una persona, questo lo diciamo tutti, ma è vero, brava e intelligente come Mauro, e che sapeva parlare in maniera facile alle persone, e quindi martellare continuamente su queste cose di droga e mafia, tutti i giorni, due volte al giorno, con una carica umana che riusciva a farsi ascoltare, a farsi accettare dalle persone, dalla gente, questo già di per sé credo che dà fastidio. Poi anche una persona intelligente che dunque, parlando, vedendo, considerando, eccetera, io non lo so questo, ma insomma, forse una persona intelligente che ha voglia di capire come stanno le cose fa uno più uno, più uno, più uno, e dunque non credo che lui avesse scoperto cose incredibili, però aveva voglia sicuramente di capire cosa c'era, e in qualche modo lì in televisione era in condizioni di farlo. Mauro Rostagno è persona curiosa ed è convinto che la passione per il giornalismo d'inchiesta passi anche attraverso piccoli gesti di denuncia quotidiana, come ricorda Chicca Roveri. Credo per questa passione che ho sempre avuto per la gente e per l'umanità, questa cosa di dire nome e cognome di quelli che fanno mancare l'acqua, di quelli che non puliscono le strade, di quelli che tengono le scuole sporche, di quelli che non raccolgono le siringhe per terra. E che quindi lui cosa faceva? Arrivava una telefonata che segnalava questo, lui pigliava, andava dall'assessore, diceva come mai? E magari la luce arrivava, capisci? E dunque la gente diceva, ah, ma bravo questo, perché le cose le fa, succedono, dunque possono succedere, dunque che noi non abbiamo la luce, può avvenire che abbiamo la luce, ma allora forse si può cambiare. Erano anche queste piccole cose che facevano che lui fosse ascoltato, perché sono cose concrete, quindi parlare della droga diventava una cosa concreta, la gente l'AIFA ha fatto una campagna su l'AIFA prima che stanziassero i miliardi per fare questa cosa, lui la faceva quotidianamente, uno spot su questa cosa, uno spot sulla droga, sui bambini. Sulla morte di Mauro Rostagno ci sono molti buchi neri. La sera del 26 settembre 1988, nelle campagne del Trapanese, avviene uno strano blackout. Nelle case manca la luce per alcune ore. Il giorno dopo l'omicidio, gli investigatori interrogano Vincenzo Mastrantonio, tecnico dell'Enel. È un uomo dai modi garbati, ben vestito, molto ossequioso. Quella sera è successo qualcosa di strano. L'energia elettrica non è più arrivata ai fili, sostiene Mastrantonio. Il tecnico dell'Enel abita a Lenzi, un borgo tra la montagna solitaria e un mare dove in lontananza sembra quasi affondare la città di Trapani. 8 mesi dopo l'omicidio di Mauro Rostagno, il cadavere di Vincenzo Mastrantonio viene ritrovato a qualche chilometro da Lenzi. È stato ucciso a colpi di lupara. Dopo 8 anni si scopre che quell'impiegato dell'Enel, così gentile e affidabile, è l'autista e il collaboratore più stretto di Vincenzo Virga, il boss dei boss della mafia trapanese. Anni dopo, davanti ai magistrati, anche i collaboratori di giustizia parleranno dell'omicidio di Mauro Rostagno. Il pentito Francesco Milazzo parla di Vincenzo Mastrantonio. Dice che è stato lui a spegnere la luce quella notte. Sostiene di aver agito su ordine di Vincenzo Virga. Il sostituto procuratore Ingroia ritrova un vecchio verbale di Francesco Marino Mannoia. Lui, in carcere, aveva sentito lamentarsi i trapanesi di quel giornalista, uno che dagli schermi prendeva sempre in giro i boss. Qualcosa ricorda anche Giovanni Brusca. Fu Riina a dirmi che eravamo stati noi, che era stata a cosa nostra a uccidere Mauro Rostagno. Nel fascicolo sulla morte di Mauro Rostagno entra anche il racconto di Angelo Sino, il ministro dei lavori pubblici della mafia siciliana. Nel 2001 Angelo Sino confida ai magistrati che lo sapeva anche lui del problema che i suoi capi avevano a Trapani. Il cosiddetto problema era Mauro Rostagno. Mi sono mosso per salvarlo. Non volevo che si facesse troppo rumore con quell'omicidio, spiega Sino, ormai collaboratore di giustizia. E infine c'è un giallo nel giallo. Alcune cassette VHS sono scomparse subito dopo l'omicidio di Mauro Rostagno, la notte del 26 settembre 1988. Erano sempre nella sua borsa. Poi ne sono sparite altre, in più circostanze. In quelle cassette, forse, c'è il movente di uno dei grandi delitti siciliani, un altro di quei casi a carico di ignoti, oggi archiviato. Ma 18 anni dopo la morte di Mauro Rostagno, la sorella, Carla, chiede di proseguire le indagini. È il giallo delle registrazioni di Mauro Rostagno che nessuno ha mai ritrovato. Mauro Rostagno era un giornalista capace, le sue denunce risultavano puntuali, anni dopo tutte confermate dalla magistratura. Di lui oggi resta la sua voce al telegiornale dell'emittente televisiva di Trapani RTC. Sono parole a futura memoria. La mafia come se fosse e avesse il suo centro a Palermo. Noi sottolineiamo invece che da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione e il traffico di droga, che è sempre stato in testa in questo programma e che soltanto recentemente i palermitani hanno avuto un ingresso in questa direzione. E ci sono in questo momento 5 procedimenti in corso che investono direttamente Cosa Nostra trapanese, in particolare i pretesi capi mafia della zona, cioè Mariano Gatto da una parte e Totò Minore dall'altra, e abbiamo chiesto al commissario antimafia che valutazione dà del peso specifico della mafia trapanese nel suo complesso, ed infine se per caso e se la produzione della droga, la commercializzazione della droga, che è il big business della mafia, ha potuto invertire recentemente i rapporti tra mafia e politica. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline di Biacchessi @radio24.it.